forza, dava una razione di coniglio, ho ragionato, più ragionato io sì, un idea. E alla fine quanti è un mezzo toccato. È possibile che queste cose le spengano a sapere sempre come le spariscono ogni cosa. Per cui invece le danno sempre prima e hanno sempre la tessera giusta. Ma tanto si sa tutti, no? Che tipografi le quasi fino a quelle carte analiche del resto, non c'è il mercato nero. Vi abbiamo lamentato signora Salvini, chi mangia troppo e ruba la patria, ce l'ha insegnato lui, no? Sì, sì. E si starà a vedere. E che si starà a vedere? E poi anche qui si comincia a avere timore che non ce la fa più uno. Proprio ora che si sta ricostruendo l'Italia fascista. Che il nostro duce l'è tornato in sella al solestriero. Avete ragione, avevo voluto dire che si stringono a tutti un pochino denti. Nella cintura. Ma se gli avevo detto, Mario sarà dimagrito 10 kg nell'ultimo anno. La Valeria ha un pochino meno e io ero partita a tra mano persi mai. Ma io non ho perso tanto, Beata voce. Ma quelle vorrei dire, Zeta. È tutto un giramento di acqua e dolore alla luna. Per la gravidanza, per le bombe, o perché non mangia più nulla. Ma io nemmeno un uovo, un quinto di zucchero, dicevo, mia la saccarina. E invece le sono patate, patate, patate. E meno male, ci sono vecchi istituzioni di patate. Sì, ma per conservarle, non sanno nemmeno come fare, infatti, parecchi vagoni e le hanno buttate in aria. Io questo lo sapevo. Lo sapete, voi stamattina ti facevano a 110 lire il chilo. No, se ci vuoi 40 lire ormai per diventare il desimario e di un'altra casa. Ma come si fa? Questo alniere che pezzi farà bene a tassela una mattina. Ma anche i bottegai fanno le truppe da prendere. A me mi pare anche qui e cenarci un po' tutti, ora poi la salta finita all'atomi. E poi oggi è colpa della guerra, domani è colpa di un'altra cosa. E intanto noi con una nazione di un intermezzo di pane a testa, poi pane. Mamma mia, ma come gli è duro, il nero, nero. Quanto adesso che sarà di patinare? Ma che non ricordate voi? Fare il forno balcone. E oggi mi sarebbe un biscotto. No, non un quinto di Bob. Chi ce l'ha il cognac? È stato proprio all'ospedale come medicinale. Poi il caffè con la panna. No, certo, non si fa della panna per i mostri di burro. Abbiate pazienza, non ho nemmeno fatto nulla, ma sono stanca. No, ma va di là da me, se no a farlo, capito? No, via, si mette sul fuoco. Caffè, poi, perché proprio lo si può chiamare così. Sapete, a me l'altro giorno mi hanno offerto uno vero, vero. Oddio, qua non mi prendo l'altro, ma questo non si mi fa capello, No, no, mi era parso di sentir Mario vigilarsi. Come voi gli vorrete bene, voi a Mario. Va? La Valeria un pochino ne capisce. No, la Valeria è intelligente. E poi vedesse che amore per il suo fratello. Son proprio contenta che Mario gli abbia trovato lavoro di questi tempi. Si è sempre dato un galante affare. Poi ora, da quando ti ha cominciato, ti hanno messo ormai, chi lo vede più, e ti ha preso la mattina, torna tardi la sera, e non mi racconta nulla, non sapete come sono i ragazzi, ne sono busoni, ma lui è rimasto sempre un po' in quella rabbia di non aver fatto il soldato per via della gamba, e c'è quei suoi amici che l'accusano d'essere si moscato, sia a loro e a quella maledetta poliomelite, e poi ce ne fosse poco di imboscata. E con il suo guerra, ci trovi qualche giorno a dire qualche cosa. Io gliel'avevo detto a Mario di andare a parlare con l'uomo podestà. E dopo che il re Badoglio, dopo i traditori cornuti che sono scappati, le cose non si sono messe parecchio, ma parecchio bene in città, Poi gli operai ora sono si rivista. E siamo una razza forte noi italiani, ci si fa certo mettere sotto da quegli sfattisti vigliacni e da quei bandisti e partigiani. Figurati poi se non ci fanno paura le bombe degli inglesi. Pochi marci! Scusate la volgarità, ma quando la scuola è la scuola. Le ultime lettere e mi marito e mi scrive da la situazione laggiù in Grecia e anche in Russia, c'è il figliolo della Magoncina e gli è prigionieri laggiù. Speriamo, ma che il Dio è un cenemante di più punte di guerra. Ma signora Salvini, che sono le guerre che cosa ha risolto l'impero, Ed è, non sapete voi in capo chi è che ve le mette lì il vostro amico? Quale? Lì napoletano. Che volete dire Gaetano? Sì. Ma voi Gaetano è un bel mai manco tanto simpatico? No, no, simpatico è simpatico, il camiciaio ma mi è un migato. Mi puzza la macchina quello. Se non vedessi come balla il tanico. Insieme? No, se vado due passettini lì nella sua bottega, quando sono andata a pigliare la camicia per Mario, ora lei ha la contabilità, gli ha portato camicie più decenti. Ma chi l'avete comprata o chi l'aveva regalata? figurarsi se qualcuno ti regala qualcosa di questi tempi. Magari cambia qualche cos'altro. Signorina, e che non volete dire? Nulla, nulla, è che a me milionario che mi pagano. Tutti devono. Gaetano, come farebbe male a una mosca? Sarà. Voi comunque fareste bene a non frequentare la certa gente. Abbiate pazienza, ma ora davvero bisogna che mi riposi un pochino. Silvia, torno di là da me. Poi se non ci avessi un gocciolino d'olio che venite dalla campagna. E ve lo porto io più tardi. Grazie, arrivederci. Che andava via? Tu mi ha fatto paura. E mi mettevo tutto a riti. Le mezz'ora mi sono svegliata, ma ho sentito la voce di là e sono rimasta a letto. Tutto ha fatto bene. Senti, tu sei stato fuori tutta la notte? E figlioli, venarsene una aspetta mia la piena di copri fuoco. Come o non come, te vanno a venire fuori a vedere questo vento proiaio di mondo. Resta a pancia della domanda che tu fuori. Che cose dire, non si rimetta ancora in a posto. E tutti gli spagni tutte le mattine la signora Parigi. Questo invece che gli ha sentito le sirene si è messa a scacciare finché è una rotolacque. Ma che cosa tornando solamente ora? Oh, Valeria, e sono 15 chilometri da San Casciano. A San Casciano? Sì. E la prossima volta se la trovasse lassù una levatrice e gli ha portato la moglie nella villa di Cingano. Lavorava il figlio, gli aveva preso mio nonce per scappare a bombardamenti. Sì, ma chi è? Ed è il più grande tagliolo di Santa Croce. Ed è un amico di scuola di Pavolini, diano, i Bollesi. Quello dalle braccine oltre da modi sgarbati. Gli si allungare mai le braccine e ammazzate contro il figlio delle fila. La mia 16 anni. Stanotte hanno cerezzare. Ma bambini e gli hanno da nascere tutti e speriamo che venga su meglio di mille mesi al mondo. Che forse è andata prima sua? E ma chiamare il fattore, non potevo dirti no. Ma tu vedessi all'andata su quei tornati una fatica da sputa fuori l'anima, altro è battaglina, altro è il ginettaccio ai curte franze. Però il ritorno Valerio non si è andata. Si la trovavamo su quelle curve in discesa, o per l'andata, con la mia glossia, con un genere di viso, mi sentivo tutti i polmoni gonfi d'aria buona, e gli olivi da questa parte, le vigne da quest'altra. Mamma mia, ma come per bella questa terra, Valeria? E siamo proprio noi uomini che si fa schifo, ci si ammazza tra noi o in carogne, no? Ma noi siamo peggio delle bestie, perché almeno le bestie ne lo fanno per mangiare noi. E che si fa? Io non mi arrendo. E che si sta facendo in questa guerra? Prima si baracchia, poi si ritorna via. E siamo con tedeschi per il mondo, però si ha un'idea. E si fa con gli inglesi, e però ci bombardano. Se... Il posto di blocco alla certosa di Carluzzo, le sbarbate. rilevatrici, preti e dottori possano circolare durante il coprifuoco. Mi è toccato a fargli vedere i permessi dell'ospedale, quello della questura, che alla fine mi hanno controllato dentro la borsa. E meno male mi hanno lasciato dentro il loro mio. Ma avevano preso a me per una sorpresa. Io di no, io nella politica non ci voglio entrare. Scandatevi tra voi, e io ho due figlioli che mi aspettano a casa e un marito in guerra. E dalla tua parte. Ma se non sa nemmeno noi dove gli è finito. Tra l'altro le è arrivata una lettera. Bravo? Sì, l'ha portata a Gaetano ieri sera. E che dice? E non lo so, me la sono sentita da prima senza te e Mario. No, tra me? Non è qui, in casetta della tavola. Ma qui c'è solamente le posate. L'avrà presa Mario allora, te lo può chiedere. Brava. No, no, no, se dorme in profondo. Lasciamo fare, ha lavorato tanto quest'ultimo mese. E lo so, amore. O se non c'è Mario nel suo letto? Che l'ha sentito ieri sera, rincasato? Sì, e lo sentivo rimeggiare un po' la rabbia, poi ho messo in camera e proprio nulla. Vado a dire, e gli avrà qualche figliola a Gino? Sì, Mario. Perché? Non le vuole avere il tuo fratello? No. Vai in camera sua. Chi è il ciotolino e cerchi fuori dalla finestra? Mamma, qui non c'è nulla! Maremma! Sui tetti di San Frediano la primula rossa la voltisce ancora. Te l'ha presa anche il bicchiere di panna? Tu vedrai, non c'è nulla. No, ma panna no! Ma non succede niente che ieri sera almeno la si mangiava. E mi volevo fare una sorpresa. Una sorpresa, ora c'ho la voglia. No. E c'è il condensato di riserva, c'è le gallette. E vorrà dire che si fa il caffè con le bruciate? Buongiorno, Ma fa notte. Oh, pure, dopo c'è da tornare a lavorare. E che ti ha fatto la notte? Ci si dà pure. Ma è in ufficio tutta la notte? Mi avevamo di preoccupare, il lavoro c'è anche troppo. No, io non mi preoccupo, però almeno tu ci lasciassi il numero di telefono. O dove gli hai questo ufficio della contabilità? Mario, lo sai che la mamma stanotte l'ha sognato nella Svizzera là in Baviera in Portogallo? Sì, io sono ne sono stato per due. Sì, però intanto si sono risparmiati in guerra. Che sono vigliacchi, vigliacchi per dato rifugio a Giudea e agli Aleviani, tanto tra gli ricchi strozzini usurai se la metterà veramente. Io l'avevo fatto volentieri a me. Questa guerra. Ma chi ti può mettere? Ma chi ti può mettere? Ma non ci posso a te, abbiamo la lega, la partita. Mamma è stata dalla parte. Tu agli occhi ti danno qualcos'altro da comandare. No. Guarda, guardi tuo fratello. Rossetto. Per via, sarà sugo di pomodoro, ma poi lo lasci. Oh Mario, ma che ti ha mangiato ieri sera per cena? Bravo, Quella di che me la lavo da sopra. Fatto con la notte. Te piuttosto? Dove sei stato, Paolo? Io? Non sono stata. A lavorare invece lì non avevo a ballare. Chi l'ora? Chi va a essere? Aprica, vai. No, vai. Yeah. si era venuti mai in Grecia convinti da dare in villeggiatura al mare, le isole, il sole e tutto il resto, con l'abbondanza di letture di poeti greci, filosofi, Euristi, Ettore. Non c'è nessuna poesia nella guerra, tanto che Omero l'Ilia dell'Odissea. È solo una prosaica volgare e disumana realtà, eppure da sempre l'uomo è in guerra. Qui ci sono delle montagne alte, grigie, scure, minacciose. Chi l'avrebbe mai detto in Grecia? E la nostra attrezzatura è inadeguata da estate. Calzoni corti, scarpe leggere come di cartone. Io, per fortuna, ne ho un paio abbastanza decenti. Ho barattato il mio orologio, quello intanto, con degli scarponi di un greco che i partigiani della Grecia hanno più fame di noi. Era mia intenzione attraversare queste montagne e raggiungere il mare nostro, l'Adriatico. Mi ero detto se arrivo al mare sono salvo, e invece sono rimasto quassù in montagna intrappolato. Il momento più terribile è stato l'8 settembre, il comunicato di Badoglio. C'è stata una gran confusione e io come sottotenente ne dovevo fare. Ho detto ai miei uomini, ognuno decida da sé, cerca di fare quello che sente. L'importante era salvare la pelle, tornare a casa. Ma so di aver sbagliato. L'ho capito solo dopo. Dovevo decidere io per loro. Qua i partigiani sono incattiviti contro noi italiani e i tedeschi uguali. Due nemici e noi in mezzo. Ora siamo allo sfascio. Ma i nemici più terribili sono la fame, il freddo, più la paura costante di morire. Fanno andare di volta il cervello. Nella nostra baracca di prigionieri c'è un giovane tenente romagnolo, si chiama Zavatta. È da una settimana che tutti si campano tre gallette a testa. E il tenente è un giovane silenzioso, molto gentile e buono, che mi chiedo come fa questa gente a fare il soldato. È uno da biblioteca, non da guerra, di quelli che ti immagini immersi dentro una montagna di libri a studiare. Ebbene, il tenente Zavatta l'altro giorno ha preso l'ultimo biscotto, se l'è sbriciolato sul palmo della mano e ha cominciato a beccarlo come un uccellino e con la voce ripeteva cip, cip, cip. Noi in baracca si è riso tutti all'inizio, ma lui serio ha continuato. Cip, cip, cip, non la finiva più. È stato tutto il giorno a fare cip cip, è uscito fuori di cervello. Pensa te che era partito che pesava più di 90 kg, un pezzo d'uomo di 1,80 m. Ora era ridotto uno stecchino di 50 kg. Poi ha buttato fuori dalla baracca ogni cosa, ha spaccato ogni cosa. Ci sono voluti 5 uomini per bloccarlo. Ora non so che fine abbia fatto, qual è stato il suo destino, quale sarà il mio. Non lo sa nemmeno il signore. Non sono le bombe o i cannoni quelli che ci fanno paura. Ormai si pensa a questa guerra. E ora comincio a capire perché e mi chiedo che sarebbe venuti a fare da queste parti. Ora quello contro cui si combatte ogni istante è il gelo, il fame, i pidocchi, tifo petecchiale per tutti. Ogni giorno si sotterra qualcuno del nostro battaglione. Ho dovuto anche fare a pugni con due dei miei soldati per impedire che si mettessero a desinare con la carne di un cadavere. Ti rendi conto a cosa siamo arrivati? Scusami, Franchino, se ti scrivo queste cose, ma tu sei il mio migliore amico e so quanto bene vuoi alla mia famiglia. Ti chiedo di abbracciare forte i miei figlioli, che saranno diventati grandi. Sono passati ormai 2 anni dall'ultima licenza. E non mi ha dato. Mi manca tanto. E la mia Firenze. Cosa darei per una cittadina in centro su Bugatti o sedersi da Domeia a guardare passare un che bello figliolo? O sentire la mia Clara che si stringe al mio braccio? Ecco lì, con l'orchestrina in piazza a suonare sotto il cielo stellato di quelle belle sere d'estate. Chissà se tutto questo si potrà ancora fare un giorno. Ora io non so se ti arriverà mai questa lettera. Comunque ti prego, mi raccomando, tra mia moglie. E ti prego, giuro su Dio, che non gli racconterai nulla di quello che ti ho scritto. Affido questa busta. pazienza. Se non la fai lì, basta la fila. Chi è? Urisinella! E gli è Gaetano. A cui gli è te, dai. Io devo cambiare le scarpe. Buongiorno, bella signorina. Qui c'è lei. Ecco qua per voi il miglior camisaggio di Napoli e di Firenze. Un di Salerno. Appunto, e mi cambierete da Salerno a Napoli. Voi perché ci siete festose, arrivate in quel di Firenze. Venga la bottega, venite con la bottega di camisaggio. Allora, questa è una fabbrica per uomo e per signora. Lo golfo di Napoli fino in sub dove danno sciacquo i suoi panni. E io modestamente ci sciacquo le pezzatine. Ma che stai, non posso chiacchierare. Una pedale salire si mi ha fatto così, ho fatto pulicinella che piace di cantare a soia, anche se io personalmente sono costumato proprio con la campana. Allora, come sta? Ma che la succedotta? Ha già portato un pacchetto per vostro fratello. E voilà! Guardate che ha giacca rivoltata come nuova! E c'è sta la camisa! E questa è veramente nuova nuova della migliore scuola sartoriale di via Gaia. A noi modestamente mangio un bel mistero mio. Gaetano, la volete la tazzina di caffè? E come ve la posso rifiutare? Però le mezzo di quello d'oro e mezzo surrogato. La prossima volta, la prossima bella tazzina di caffè. Oggi solo la mattina al cuore se devo un caffè. Allora lui dice, tu mangi buono e che grossa. E io mangio pure le fava. Al buco tu e allora trovo pure io. Salve di buo! Ma tu che? No, a rubare, è la lingua napoletana. Rubare è il idioma tosco. Se rubate voi, rubo pure io. Ma che vuol dire? Ma che hai capito? Non scherzare, sto paziente, che stamattina faccio uscire dalle spirituzze. Ah sì, faccio portare pure la cassetta degli attrezzi, perché già che è camisa hanno trovato il nostro giovane maiolino. Per tutti mi ricordo di aver figlio. Ma ci sta vostro fratello in casa? Sì. Però bisogna farla riposare un altro po'. Ah, sta per bene, è così migliore. Il sonno è sacro, il sonno porta sogni, e i sogni porta dire no. E Gaetano ci vuole, ti ha permesso, deve portare un piccolo pensiero pure per voi. Un paio di guanti. No, grazie Gaetano, davvero, ma non li posso accettare. Ma che state scherzando? Qua dai pelle, pelle, pelle. E appunto, non posso permetterlo. E mica quello di rifiutare le cose, questa valle è una carezza di qua. E io invece l'ho rifiuto, mi dispiace per voi, per davvero. No, ma non è possibile. E poi scusate, com'è che dici tu voi a Firenze? Ma abbiamo fatto qua, qua, e basta che sì. Sì, sì, sì, ma non è possibile. Grazie Gaetano, ma è un posso accettare. Ma voi allora sono un pulita, tanto la vostra figlia, a fare. E già fai scorto, non voglio sapere niente, punto e a troppo. Ciao Gaetano, e voi ci fate pagare nulla, ma che non fate voi dire si tempi miracoli, perché siete San Francesco da Sisi. Ho scusato una gara, ma se di miracoli sono da pensare anche una, ti sta molto a far bennare. Con tutto il rispetto che sono anche tanto, sì sì, ma... Ma come mi dispone che sto? Sta sempre che la faccia a me. Mi sta proprio il capo. Ma poi sapete che ha pensato? Ma secondo me, dimmi, ma mica le scorre sangue rossa. E no, e non è rossa. Vede, come lo sai fede. E dimmi, le scorre sangue riso, ma io dimmi! E vedete che la prossima volta porta l'abito completo. Vedete vostro figlio che figurone farà in ufficio? È tutto il femmine con un corno a prese, che zara le basta! Pure, non l'hai scocciato. Che poi mi è un mistero, lei è inutile, lei è inutile. Vabbè, arriva, vai. Si è svegliato ora e ha lavorato tutta la notte. Ma che tu gli racconti quante volte ha preso? Sta zitta! Mario, il signor Gaetano ci sta facendo una cortesia. Una cortesia? Vieni nero. E ora te ci avessi tornato. Ma guarda, che la fai finita? Quindi noi, signor Gaetano, che mi ci sei andato a fare qualcosa? Che è vero che sei stato con un vino fino all'estate scorsa. Ma io! Vettura, ma io non sei con tutte queste cuscine, tutte queste pezze. E ci dovrebbe rimandare in quella isoletta, il sole in mare fa un po' di ghiacciato. Ma perché tu dici, su, abbiate pazienza, signor Gaetano, mi scuso io. Ma che tu ti scusi? Ma che tu ti scusi che sono un po' l'ho detto, fatta finita, se no va fuori e dammi una sbollitina. Vabbè, non vuoi. Ma sto visto a visto, non c'ho le pipelette a casa, vi? No, no, no, se mi lasci la domanda, tu gliele fai a tutto tempo, Nino, fa. Fuori, e ritorna, che tu sei più tranquillo. Grazie pazienza, ragazzi. Va pure così. E adesso vedo un guaglione, l'ho scelato la poveri nel bus. Anche questo lavoro, mi dà ansia, mi mette la pressione. Non fa niente, ma se mi vedete il capo, mi dà la moto baracca pure a te e vedete che la prossima volta le porto l'altro qua ci muovo. Praticamente mi ha preso il caffè e si sarà piacciato. Ma buono, non mancherà occasione, pure per vostro figlio, ma state da più tranquilli. Mi diventavo sia aggressivo. Quindi troppo tempo che nessuno ha mancato a casa. Forse anche prima, anche se c'era lui. La maledetta che lo so. Mi non adesso forse a crescere un maggiore che era un problema così. Ma poi pure per crescere dopo. C'è la sala di lei, c'è la sala di valori più belli. E mi sono preso pure lui, non mi zappi, che ragazzo quando fa credere. E dopo adesso forte, adesso lo mascolo, lo vuoi ridere. Infatti, lo vuoi ridere. E poi è chiaro che uno può diventare un poco prepotente. No. No, Mario non è un prepotente. Figurarsi era quasi un artista. Come vedete, mi disegnava da vicino. Anche un pittore l'aveva preso a bottega, e da lui l'aveva preso poi in simpatia, gli insegnava segreti di mestiere. Oh, più volevo andare nelle mie, non so perché. E allora non avevo più che dico, quasi farà ma col power. Voi voi scherzate sempre, Gaetano. E un pugno avete voi, i figlioli, da preoccuparvi? È vero, e i figli tutta testa. Però poi ci stanno i tedeschi, e chi ne sfiga per abbassare l'occupazione. Ma voi, non vi sono mai ricordate il tanto? Niente, sono caro, non mi piace. La verità non mi sono mai guardati tanto nemmeno a me. Però nella politica è meglio non entrarci. Io sono solamente là da finire questa guerra, non doveva essere una guerra corta, andate anche dura, questo inferno. Prima gli inglesi ne venivano qui a Firenze, wonderful, wonderful, beautiful, beautiful, e ora boom, boom, boom, boom, boom. Chi è qui Vischero che diceva che Firenze è una guerra ormai bombardata? E forse si pensava un po' tutti, e siamo presunto, signori fiorentini. Ora si è impacchettata anche il Davide, così si sta più tranquilli. No, caso le si impacchetta nemmeno, tanto le sono brutte, ghiaccio d'inferno, anche la pollice d'estate. Ma le sono le nostre case, e c'è le nostre famiglie dentro, bombarda piuttosto le case del mio tagliolo. Quando passo dal Cardine mi fermo sempre alla pillina da dame terra e gli fa sempre la stessa domanda al nostro signore, che ora tanto giusto e misericordioso mi non accumo di fatica pensarlo. Ma Adamo ed Eva e gli hanno avuto l'inferno, ma come noi, uguale, ma noi peccatori di che? E non si è mangiato nemmeno la metà. Chi si osa di sicuro? A me la mamma. State per fuori, ci riparo. No. tempo siete sposati? Eh? Tre mesi. Come tre mesi? No. Siete pensato voi di vostra moglie? No, è che sono due notti, non si riesce a dormire, poi mi Sandrina è così nervosa. Lo sempre dentro io e gli uomini sono meno resistenti di noi donne. Ma no, io penso che un caffè buttando loro, ma non faccio vedere di nuovo un fascio, eh? Potete dire? Non tutti gli uomini sono uguali con la resistenza. Mi dicevo che la sopportazione di dolore... Il nome è una cosa importante e poi uno chiamato Porto, Placido, Pandolfo. Ah, ma poi l'ha fatto un miracolo! Guarda che cacchio bellezza! E cavolo, la bella figli spalda secca! Si potrebbe fare una bella bistecca di maiale alto. Grazie signora Clark. Lei è il mio mestiere. Dopo anche offeso. A questo ne sono abituata. Invece voi con le vostre parole gentili, la poesia. Tu su, diteci un nome. Clark. Grazie, sarei orgogliosa, ma non si può chiamare un maschio o un nome. Ora si chiamerà Ulisse. E come se si ricalda così. E invece è coraggioso, forte. E furbo, che non è una bella cosa, quando vedi il piede inferno, ma tanto il mondo ora, un pare l'assistuto dei furbi. Io lo chiamerei Davide. Come no? È come Davide di Michelangelo, no? È la tradizione, Sandra. Che me ne importa? Ulisse è il canto che l'ha fatto venire al mondo. Canto 26, vero? Bravo! Lo porti, lo porti! Della bella notizia. Sì, certo, ma ci penserà Claudio. Sì, preciso. Al numero 12. Strano. Perché? Perché via dei magazzini è quell'altro albero della città. Oh, scusate, mi sono... No. Io voglio sapere perché tu mi raccontate tutte le tue panzane. Da voi per forza. È una gallina che la trova un cane, tu sei a casa mia e tu mi rispondi un gatto. E tu mi racconti le cose che mi stanno sul serio, a cominciare dal più ragazzo di te, il marito o il tuo fratello. Beh, questo è un interrogatorio, siamo alla polizia. No, grazie di tutto, io voglio. No, scusate, madonna, mi laura, mi fa perdere la pazienza, per piacere. Oh, non mi toccate, eh. Quelle pepe che ha la roba da mangiare. Sì, ce l'abbiamo. Ecco, quando no. Non mi preoccupate. No, no, no, io mi preoccupo. Tanto andate all'ospedale che ci fanno stare e ci fanno stare anche il vostro fratello. E noi si viene a trovarvi. Sì, però io invece non capisco Gaetano, perché ma che fai? E mette a rischio di una famiglia intera, con si sa farmi meno indoglietti in questa. Ma guarda, non sta qua, la devi mandare a casa. E non è che tu ci ha fatto vedere al cinematografo o al cinefrontale luce. Ma poi là, sta fanno sentire sempre come con l'errore. Ma pure tu sta stai da nona da capo. Oh, io sono grulla. E lo so da me che questa è tutta propaganda. Nella guerra nella mi fa schifo. Non fa sempre fatto schifo. Però, di che doveva fare con la dietro? Nascondisi. Devi finire in prigione o fucilato per diserzione. E così, appone, non mi è mai garbato più di tanto. Però abbiamo un soldato che gli ha giurato davanti ai re d'Italia. E avremo la tua storia. Mi è scappato, sì, con il meschino, Sanoglio. E caso brindate, caso quando fa credere, caso ma la prima potenza, la settima, i migliori, il più forte, che ha conquistato il mondo, ma fa l'impero. E il bello, e compri pure il luogo questa notizia. L'Africa ha un pezzo, e la Russia, ma sono tutto molto assiderato, hanno fatto i prigionieri di volere. E l'Albania, i Balcani, la Grecia. Ma la diretta l'ho letto di vostro marito. Che voi ne sapete mai della lettera di mio marito? L'ho portato e l'ho dovuto leggere. Che vuol dire l'ho dovuta leggere? Ma che sta male, vostra figlia voleva che la preparasse degli spiaceri o delle mani. Lei l'ha messo a tutto io, comunque voi la mi pigliate anche bene con la lasci stare. Ma come mi permetto? No, mi permetto, come i tempi mettete in capo. Ma vedete, la vostra figlia l'ha visitata sua madre, è una capa sua per pensare, non c'è bene. Grazie, l'avete detto che la mia figliola, la mia grulla, è da me un cielo arcano. Non mi dica stessa che ha venuto a cercare me, non io, vostro figlio. Della brutta vita. Questi che deve? È una menaccia? È un fortunato? No, è un consiglio. Batteva tutto, che avevo bene, che mi stima, voi e la famiglia voi. Che considera vostro marito un galantuomo, una persona per bene, che fa sempre un'altra amicizia sola, pure si spesso non la pensava alla stessa maniera. Però se voi si stesse qua, subito capire la situazione. Come a tutti quelli che hanno tornato dalla Russia, dall'Africa, e che hanno capito. Ma bella ordine che gli ha avuto. Però mo, si stanno più organizzando. Perché mi vuole comandare a questi tedeschi fascisti da lei? Voi, ma dico, anche tu non sa da me che gli ha da fare e non ha bisogno dei vostri consigli. Non ha di dubbio, ne sono convinto che sia. Comunque, ora è meno a voi, vi siete scoperto, eh? Ora va un quadrato giusto. E che voi siete? Un anarchico o un bandito? Un bolscevico? Volete sapere che faccio da sopra? Ma io sono un cristiano, non devo paura. La lotta per la libertà e la giustizia di questo paese. E quando penso a mio padre e mia madre, che è a casa loro, che finite distrutto sotto i bombardamenti. Allora sì, ma me ne appende tutta la violenza, la cattiveria, la produzione di queste bombe. Però chi le butta queste bombe? I tedeschi o gli inglesi? Gli inglesi, che hanno certi regni a mandato fascista tedeschi. Sì, ma chi sono gli amici allora? I tedeschi o gli inglesi? I nemici nostri, su chi li casa devono portarsi più agli uni, che devono mettere una roba con gli occhi un po', che ne portano a cacca cambiare con centro vento. E se ne portano con un vigilino, perché abbiamo fatto i gomme, che li fa bene. E che colpa gli hanno? A chi hanno fatto i male? A nessuno. E allora perché gli vogliono mandare in una galera? Perché credono non hanno un Dio. O perché crede che lo stesso Dio andava da mare? Sì, però non mi penso. Che colpe gli ha lui per essere prigioniero a morire di fame e di freddo? Il vostro marito ha capito da sbagliare. Ma scusa il nome. Ma se va proprio a conquistare la rete. Ma invece lei voleva lasciare tranquilla la casa loro. Invece no, e a un cena un accetto col signorino era bombardato a destra e a sinistra. A che scusa il vostro marito si era cavo? Se la casa sua, ma che non è più suo. Lo sapeva anche lui, però abbiamo un soldato. Questo marito, come tutti i soldati che hanno portato un fronte, abbiamo pagato per coltello. Però non c'è una riscattata, è un continuo a fare. Perché abbiamo capito lo sto nemico? Se fosse per me, Gaetano, per la mia vita, io ho due figlioli. Io gli ho da proteggere, io gli ho da tenere in fondo da questa maledicina. Se mi scoprano e mi fucilano a me e loro, ma non mi scopriranno. Intanto, tanto con questa fanatica via accanto, come si farebbe? Ma ci voleva fare male, la mette io. La mette con la aveva ben innasato. E voi, che cosa? Che vuoi eri un sovversivo. E non sono un sovversivo, io sono pure, poi c'è questa andata tanta. Donna Carla, ma non si può stare chiusa da fare un tacco, si può fare la palestra. Non so per la stazione, ma questi mi chiamano, uscire è la pistola. No, mi fate paura, io non voglio più sentire parlare di morti, e io non voglio ammazzare nessuno. Quella c'è stato nessuno. Ma chi mi dici, se cazzo è quello delinquente, ma che va di questo gioco? Però, se c'è difendere perché lui era quello che mi vuole faccia la pistola, allora cacciata. Ah, no, io non la voglio fare! Un momento, signorina! Un momento! Guarda, signorina, forza! Ma chi mi metti da poco? Sono lì! Sei spiato! Sei andata a chiamare qualche uno! Come precauzione me ne vado! Venite! Grazie, signora Paga. appena si riesce a sapere dove sono finiti i nostri genitori. Sì, quindi... E la mamma l'hanno buttata via quando sono venuti i tedeschi fascisti. E il babbo... non so, non si sa nulla di loro. No, ma ora si proverà a chiedere alla comunità, Non so se i buoni gaetanci da una mano hanno fatto di noi. Allora. Ok, dopo se ne vai a pagare. Ah, finisce la sua festa. No, io... non è che non le volevo tenere, ma... perché c'è anche la piscina. Sì, ho capito. Insomma... poi c'è bisogno di soldi per... No. No, se si tratta di dare una mano alla ragazza, è una cosa, ma è sempre una quattrina. No, no, scusate, non vi volevo offendere. No, via, andiamo a dare una pulitina lì dentro. No, come fanno a starci tutte e tre? Se sono qualcosa, oh, non è che le ho... a lei i libri, i nostri sono dati tutti bruciati quando ci hanno bombardato a casa. Non avete la stessa età con me? Sì. Madre e la Valente sono due lettori accaduti. Una madre legge di più il giornale, però invece la Valente di cantare romanzi in francesi. Ma passato, Robert, come me. Poi se no non c'è il tipografo, e quell'odore di carta stampata, ci garba a tutti leggere. E andiamo a vedere questo tuo ma come si fa a caricare questa lì accanto? Ha buttato un po' sui scopi. Io, sai che si fa? E si sposta, si fa come facevi, mamma, deve avere nervoso. E gli spostava tutti i mobili della casa e anche i tappeti, lui sapeva. Tutti mangiati da tagli e da topi. Anzi, un cavolo e veleno per topi. Sì, la sua poca sta perdendo a fianco. No, no, no. Le donne avevano un'idea. Sì, signore. E lei ha una bella idea per tenerla fuori dall'uscio, la tarpona della volta a casa. Ma che non c'è l'acqua. E ora come fa la mamma? Il bottiglione è sotto l'acquaio, la faccio quello. E lei il giorno mi sento. Quando subisce che c'era sotto l'armadio, hai toccato altre volte il cecio prima di rivederti il piattino. Guarda, quasi che non sogniamo stanotte. Oh mamma, oh quante tu sogni! Una voracità, pare me la voglia staccare. male. No, no. Mi piace. Ed è bene. Ed è bene che si sia attaccato subito, così, così almeno ora non ti molla più. Perché ti basterà? Perché io non lo so. Tu dici che non mi basta. No, non lo so. E non mi basta, eh? E guarda, è bene pompone. Consegnare? No, ci si consegna noi solo. Si vede un po' in spirito. fatto tondo, non voglio più trovare nessuno. Prova. No, te quando tu torni e tu ti metti a sedere, tu pigli la quella scodella di minestra con tutti. Perché qui non si scherza più. Sì, sarà bene. Scusate. Chiara, ma lei accendi la radio e si sente anche nella canzone. Se tu volete ci dovrebbe essere più la casa. No, mi importa, grazie. Se le faccio le parti solo un angolino. Un magone, via, la bocca dello stomaco. Non da qua, continuità. ho cuore di leone, ho un raggio di muglia. E così finisce che la vita non comincia e si mangia ancora un leone. Lo sapete come si dice qui a Firenze? No. Vedi meglio che paura che buscate. La società ci stanno facendo che fa tanto sì, non sta neanche a e neanche. Troppo comodo. No, beh, da noi è un è comodo, se è necessario. Che vuol dire che è necessario? È necessario perché vuole difendere una famiglia. Ma quella famiglia può stare finita di combattere, già va a giurini. E combattenti, no? Sì, ma... che troppa gente fa così, proprio. Sapete come si dice a tavola? No. O va solo che va a lupo, un po' bene e prendere. Che vuol dire? È come se si dicesse da uno non è di carne e né pesce. Com'è chiamato a Firenze che la sono fatta così? Ignati. Direbbe Dante ignati, quelli che non scelsero. È brava Dante. Né fuori ribelli, né fuori fedeli a Dio, ma per sé fuori. Ma la parola sola, egoisti. Sì, egoisti. E dimetti, ma Dante sta attento. capacità che voi insegnate film. Sandra! Sandra, fatti un gioco, per favore! Che vieni, per ora la mascella. Assiste del campo, passa sempre. Donna Clara! Donna Clara, potete venire pure voi, non va bene? Ma per un idea. Vedete. Le voglio fare una bella fotografia. Oh, sì. Tu stai, vedete, ma... Ha sentato con me, sì, è già la vittima. Però, sì. Ma raccomando però, le voglio quando vengo solo. Però guardate, siete pronti? Uno, due, e tre. Però tu, ma la parlano poco da fuori, no, perché perché si te fermano tedesco, papà. Ma si te fermano repubblichino, e tu sei spacciato, bello mio. Sì, ma si è fatto un controllo all'anagrafe di Napoli. Ah, non c'è stato problema. L'anagrafe a Napoli, non c'è sta chiuso. La bella bomba arrivata, boom! È partita l'anagrafe. Ciao, ci vuole, tutto quanto, se non prima di amare. C'è una risposta. A proposito, ho pensato, ma cosa vi amate voi? Gaetano Esposito! Buono, mamma, buono, mamma! Davvero, davvero! Però io ci andavo, che mi valeva! Però io mi riuscisse, che si fanno bello di più! Sì, ecco, che si fa con il cottiglione dell'acqua! Qua è... Aggio Borgadì, non prendo più l'occhio la comunità! La bella bottiglia e i pianti classici! Oh. Valeria! È ancora Valeria! Valeria, sei il mio Non mai! Mi riuscisse, è stata fatta un brindisi! Alla nostra battaglia, il cui coraggio e portaccio hanno portato fino a Assisi. E però sotto la protezione di San Gino Vattene da Potema, era tutto sbagliato, non era tutto da rifare. C'è da portare, fai un saccio, guarda dove vengo a fare. Sì. C'è anche se nulla a fascista e riesca. Raccontateci una cosa, come l'ha risolato tipo stetto? Ecco, per vestire nell'allevatrice del naturale. Lui rivelava l'oggetto, ci rivelava l'oggetto magica. Musso paura, che voi credete? Però, quando era primo, il tedesco gli stranzava gli occhi e si pigliava il regalino, e voilà, lo scelatino. E sotto c'erano tutti i miei ferri, e sotto a quello c'erano tutti i documenti. Allora gli dicesse, tanti auguri e complimenti alla nostra voce! Un tumore maligno dal corpo della società italiana, a disintossicarla nel sciaguravi indietro. Guardate che vendetta, sei... Una croce strappata. Il bolscevismo è la vendetta del liberalismo sul cristianesimo. Firmato Mussolini. Come nel medico, no? Siamo ritornati allo statismo più tremendo. Ma ora che si tiene i nervi saldi. Assai saldi. Dimmi, sai, il mio dottore mi ha raccontato di una famiglia e aveva un negozio in piazza Tasso. Io non sapevo nemmeno che era ebrei. Avevano una bambina piccina di 3 anni, un amore. E la bambina si sentiva bene, si chiedeva che ci andava qualche volta a fargli visita. Ci vuole raccontare ora. No, Maria, raccontava, non lo so più lei. No, finite, se no poi si va a immaginare il paese. Che è successo con questa bambina? È andata a casa sua e gli erano nascosti anche loro, però gli erano da soli e li ha trovati tutti e tre nel letto matrimoniale, il babbo, la mamma e la bambina in mezzo e accanto al letto una mozza di sangue. Come era morto? Prima gli hanno soffocato la bambina con i guanciali e poi si sono tagliati le vene dei polsi, tanto lei la paura di essere arrestata. Ma poi io chi me ne va? Sandra, Claudio, io mi passo via, domani mattina, è 6. Ci mi manda Zacchi solo calma. Mi raccomando però, non duole. Oh, e non mi facete vedere, eh? Stata clara? Io mi saluto pure a voi. Vedete che quando me ne l'aspettate, mi sto andando del carro. Oh, e mi raccomando. Facete buon Natale. Anche voi, ciao Valeria. Allora, io me ne vado. State lo pure. Oggi andate in piedi, non è? C'è da stirare prima di cena e non vogliono solo di torno. Voglio andare a vedere come va a finire da voi. Se quando dico io? No. Dai. No. Muore. Io vi posso dare una mano. Figlia, spiegate la roba pure in questo. E figli infetti. Mamma mia. Oh, chi l'avrebbe mai detto? In questo mese a me mi guardassi cresciuta più che tutta la mia vita. Grazie a voi. Sì, perché per 20 anni e ci hanno rinvescellito il cervello con gli scorsi e ora è meno che se la parte la si è presa e si finirà l'inferno uguale, ma con la lunga frazza congolati dalle vespe da mosconi con gli ignati, no, eh? E ci si brucerà il culo da un'altra parte. Sapete che tanta paura di non ce la fate. Poi c'è le bombe, arcinacci, la gente non si fa guerra tra sé. Ma in un'ora e ci siamo anche noi. E con il capo alto ci si misura. E sì, domani non partite. Ma dove è questa casa in campagna? Vicino Arezzo, un Montelli si chiama. Deve essere un paesino, come non sei Gaetano. Mi raccomando, ogni famiglia fino a un vicino. E poi mangia tanto, mangia, ricorda che è detta da mangiare anche per lui. Grazie mille per l'olio. Vi farò rimettere immediatamente a posto la sedia. Buonasera, signor Diana. Dottor Polletti, ufficialmente fatto pigliare un po' dolore. Che mettete tutto a posto come prima. Senti! E vi posso offrire una cartina? No, è che si va di furia questo. Resisto. E il bambino, come gli sta? Ah, benissimo. Vi volevo giusto ringraziare da parte di mia moglie. Voi siete una levatrice straordinaria. La signora è sempre nella villa di Cigliano. Sì, sta meglio, è lassù. Che vuoi volete? Mangia meglio, si dorme meglio, eh? E che si sta a patire qua a Firenze? I miei genitori venivano dalla campagna. Io vi avevo subito, signora Salvini, io sono venuto qui per un accertamento, niente di personale si intende, però se intanto la signorina mi volesse mostrare i documenti. Certo. Amanda, io vedo che sia svenata. È una mia nipote da parte di mio marito. Ma voi, signora Salvini, non avevate un amico di Napoli? Non mi sbaglio. No, certo, Gaetano Ruoppolo, il camiciano. Sì, gli ha dato una giustatina e il vestito di mio figliolo, sa? Uh-huh. Ora mio figliolo l'hanno preso all'ufficio contabilità di comune. Lo sappiamo. Bene, ho capito. Se la signorina vuol fare il favore di seguirmi, qua fuori ci sono due miei uomini. No, non vi preoccupate, signora Salvini. Se i documenti sono a posto, che cosa c'è da preoccuparsi? Si tratta solo di un semplice accertamento. È che ultimamente a Firenze ci sono un sacco di pugliesi, siciliani, napoletani, non in regola con i documenti. Non si riesce a capire come mai. Ah, ho visto che voi abitate... Via Calabretta numero 58. Bella città, Napoli. Bella anche il vostro quartiere. Si dovrebbe vedere il golfo, il mare. No, da casa mia non si vede. Sì, quando finisce la guerra tu mi ci porta anche a me, Anna. Non ci sono stata, deve essere splendida. C'è il castello dell'Ovo. È peccato però. Gli inglesi e gli americani a fare bombardata l'hanno ridotta come compagni. Speriamo che non succeda anche a noi. Oh, che ci provino con la nostra Firenze, signora Sabrina. Che ci provino. Gli si rade al suolo ogni cosa, Londra, Washington, Parigi, appena si è finita questa guerra si fa una bella tabula rasa. Eh? E per prima cosa ci si ripiglia anche la gioconda, che tanto roba nostra, dico bene. Io ora mettetevi il cappotto e seguite. Io resto ancora un po' qui, perché noi due dobbiamo scambiare ancora due paroline. Va bene? Il dottor Bollesi è... Mi raccomando, dammi le cantine. Grazie veramente di tutto. Signore, vi devo fare fretta. Hai fatto una fiducia. La ragazza l'ha portata giù in macchina e mi ha aspettato. Brava ragazza, la vostra nipote, giusto? Ecco, signora Salvini, io devo essere sincero con voi. Io lo so che voi siete una bravissima levatrice, la migliore di Firenze, me l'ha detto la mia moglie. E anche vostro marito, lo so che adesso è pronto a combattere. So che è una brava persona, non lo conosco, ma mi risulta. Prigioniero in Grecia, io anche palazzo. Per questo mi dispiace ancora di più, ma è che mi sono giunte certe voci. Sul conto di questa casa, su di voi. Che vi succede, signora Salvini? Voi domattina vi dovete presentare in via Bolognese al numero 88, dove si lavora in stretta collaborazione con il comando della Gestapo, e ringraziate Dio, e sono venuto io, perché io sono un bravo padre di famiglia. Voi lo sapete quanto io ci tengo ai bambini sopra. Quelli appena nati. Vedo che ci siamo capiti benissimo. Ora però ci sarebbe anche quell'altra questione da risolvere, quella del vostro amico napoletano. Che si fa? Ne discutiamo ora o ci pensiamo domattina? Io dico domattina, così vi fate una bella dormita e poi domani mi raccontate ogni cosa. Giusto? Domani. Ci pensate. Una giornata nel nostro grande albergo vi sarà molto utile, signora Salvini. Ci sono ancora così tante cose da imparare. Signor Ernesto! Non vuole essere appena di rotta? venga a trovare Santa Vergine e ve lo porto io un po' da mio padre e non mescola con quell'altro e che io soffro! Possiamo direttamente dir loro quel che pensiamo, dobbiamo farglielo sapere. Però, per lasciare una traccia, dobbiamo aprire la piaga. Potete mettervi in piedi, signora Salvini. È che qui non ci si può distrarre per un secondo, non ci si può rilassare neppure per un attimo. Purtroppo, i documenti della vostra amica erano falsi. È stata riconosciuta, sapete da chi? Da una sua compagna di ginnasio. Proprio vero, i compagni di scuola non si dimenticano mai. Sapete chi era il mio compagno di banco, il mio più grande amico? L'illustre Pablo I. Lui sì che è un uomo che ne ha fatto di strada, sempre a fianco al nostro Duce, uomo di raffinata cultura, di ingegno, e grazie a lui si possiamo godere del nostro prestigioso marchio musicale, Pablo I. Bene, questa compagnia di scuola passava di qui per i nostri uffici. L'ha riconosciuta la vostra nipotina, Sandra. Come stai? Quanto tempo? Sapevate, signora Salvini, che Amalia Iovine era un nome falso? Lo sapevate! Sandra! Certo, voi del resto siete una straordinaria levatrice a parte del vostro mestiere e poi la ragazza vi avrà fatto anche là, soprattutto dopo il parto, con il figlio al collo. Ma ora lo stiamo cercando perché a quanto mi risulta il bambino è stato portato in un ospedale perché è una malformazione. Voi sapete quanto io ci tengo ai bambini, signora Salvini, per me essere padre è un'esperienza eccezionale. Ma questo voi... potete capire benissimo, però lo sapete che i giudei lo fanno apposta a suscitare questa pietà. Sì, sì, signora Salvini, ci fanno ridere, ci commuovono, poi sotto sotto ce lo tirano nel culo, ce lo sfondano, fanno gli amiconi, ti prestano i soldi e poi dopo ti ricattano su un telefono 30, 40, 50% di interessi. Farci così. Potete togliervi il cappotto. Il nostro duce e i tedeschi ci tengono molto ai giudei. Non l'ha sentita la radio, non li avete letti i giornali, signora Salvini? La causa principale delle nostre difficoltà militari sono proprio loro, i giudei, principalmente loro per la colpa. Franca. Perché? Perché ha messo in atto una politica tempestiva e intransigente. Noi abbiamo cercato di risolvere la questione con le leggi razziali del 108. Ma voi ve lo ricordate? Il 38, signora Sara. No. La luminosa primavera. Tedeschi esperti del settore ci stanno dando una mano, proprio qua almeno in sotto. Noi tireremo dritto sulla questione della razza. Potete togliervi la maglia e la camicetta, per cortesia. Ma voi, signor Salvini, lo sapevate che quel vostro amico Gaetano Roccolo è un bandito? Un criminale, un assassino, un partigiano. Lo sapevate che ha commesso orribili delitti? No. Ha commesso delitti contro l'esercito germanico, contro bambini, creature indifese, e voi adesso non ci volete venire a raccontare i nomi degli uomini che compongono questo comitato. Signora Salvini, che so, il signor Carlo, il signor Zico, le sorelle Lascara, la signorina Matilde Cassini, il signor Nathan Cassuto, no, voi non li avete mai sentiti, vero? Chissà se a rivedere il vostro amico Gaetano non vi torni un po'. Se non era per vostro figlio, per voi finiva male. Molto male. Mi lascio solo. Mi stavo per il giorno. Mi sono sentito tutto morto. Mi sono sentito. Mi sono sentito. Della sanna. Deve farmi piacere. Potete leggerla voi. le case dei contadini, anche se oggi c'è una nebbia leggera. Da qui dovremo essere trasferiti. Ho ancora indosso la camicetta e il maglione che portavo il giorno dell'arresto, ma li ho lavati, non mi preoccupare. Cerco di tenermi con cura, non voglio che il mio bambino. Penso al mio fratellino, chissà dove sarà in questo momento. Quanto bene gli voglio, quanta stima ho per lui. E anche il babbo e la mamma li hanno presi, anche loro. Me l'ha raccontato la Matilde, sì, che era con me fino a qualche giorno fa. Speriamo non ci facciano lavorare troppo. Spero che il mio bambino cresca bene, bello e felice. Io resisto a tutte le cattiverie e i soprusi pensando a lui. Vorrei averlo tra le mie braccia e poterlo cullare un po', spingerlo forte. All'altro non ce l'ho più. E questo mi dispiace. Sentirsi in madre, come dici te, Clara, la cosa più bella che possa esistere a questo mondo. E io sono felice di essere madre. Spero che il mio bambino divenga un giorno una persona buona e ce la faccia lottare contro tutto il male che ci circonda. Io ho capito tante cose in questi giorni. Ho capito che ci vuole tanto coraggio e che il coraggio non è difficile, basta vincere la paura. Lo so, è una cosa un po' stupida, ma io non ho più paura perché appena finita questa maledetta guerra stringere il mio bambino e l'unica cosa che dovrò fare è difenderlo dal male e da tutte le cattiverie. Per questo ti capisco, Clara, quanto non volevi nasconderci, lo facevi per i tuoi figli. Avrei fatto anch'io perché. Per questo sono sicura che difenderai il mio figlio in tutti i modi, come fosse figlio tuo. Volevo ringraziare te e Gaetano per tutto quello che avete potuto fare per noi. Ti voglio bene, non ti nascondo che ho un po' di preoccupazione, ma voi state tranquilli, io ho tante cose da fare. Girano delle voci sulla nostra prossima destinazione. Aus, c'è un nome strano, non si capisce. E aveva ragione Gaetano. Il futuro dei nostri figlioli e il futuro dei figlioli di tutti gli altri. E noi siamo una famiglia fortunata. Fortunatamente Cosman. E non lo so. Fortunati e basta. Fortunati di avere una casa, di mangiare tutti i giorni. E la coscienza è posto. Ma c'è sempre la guerra. Sì, ma è la finirà prima o poi. E speriamo che sia la nostra ultima guerra. Ma dipende da noi. Perché gli si dà da mangiare. Ma credi che crescono come un uomo e non come una bestia feroce. Della guerra e bisogna di paura. Quando si sta dentro non c'è che da trovare ragione e coraggio. Fate la nanna uscire di bordo. Non cadrà con te. La finita di piangere. La nanna faremo. Se no piace, ma dice che le lacrime aiutano l'anima a lavarsi. Il sogno